Ringrazio tantissimo il nostro pubblico e i nostri ospiti, Cristiani, Marco e Andrea Pullman, che abbiamo già conosciuto l'anno scorso, più o meno in questo periodo, quando erano venuti a presentare Foglie di tabacco, che era quel libro legato a delle vicende del secolo, anzi di quasi 2 secoli fa. Quindi di un'ambientazione storica molto bello, ha avuto un grande successo, lo dicevo prima, perché noi lo misuriamo anche dal numero di uscite che ha un libro nella nostra biblioteca. Il polso era veramente molto buono e soprattutto anche le persone ci hanno dato un feedback molto interessante. Siamo di nuovo qui con loro, questa volta vedete qua Freya e Vera, la nuova produzione. Ecco, la narrativa non è facile da presentare, lo dico subito, ecco, di qualità, di alto livello come la loro, come in questo caso, però ecco, stenta sempre ad avere dei numeri molto grandi come invece una presentazione di un libro di storia locale, per dire. Ecco, questi sono purtroppo dei riscontri che riceviamo, ma che poi si invertono quando si tratta poi della lettura vera. Ecco. Le cifre si invertono perché poi il libro di storia, quando viene presentato, attira molto pubblico, ma si esaurisce lì la faccenda, cioè ci sono poi magari 10 persone che nell'arco di un anno lo chiedono in prestito. Mentre i libri di narrativa, magari il pubblico è un po' più esiguo, e invece poi viene letto che dobbiamo ricomprarlo perché si è consumato e cose di questo genere, e comunque anche poi nelle vendite il riscontro è completamente diverso. Questo è un po' un mistero che sarà tutto da scoprire, da indagare. Si vede che il lettore di narrativa è un po' più pudico e ama scoprire da sé, insomma, evidentemente i titoli, e non ha bisogno forse sempre della biblioteca o della libreria. Però noi ci crediamo e vogliamo continuare anche a fare queste iniziative, perché riteniamo sia importante fondamentalmente che le persone vengano messe in condizioni di poter incontrare anche l'autore. È sempre un'esperienza molto interessante avere questa possibilità di contatto diretto con chi si è creato una storia, l'ha scritta, ha messo del suo dentro, perché comunque l'aspetto autobiografico anche di una storia di 2 secoli precedenti c'è, correggetemi se sbaglio, comunque di suo, sì, l'autore mette del proprio, insomma delle proprie anche emozioni, dei pensieri, quindi è una comunicazione molto particolare. La storia è un'altra cosa, è un'indagine, è un documento, è una collazione di diverse cose che vengono messe insieme con dei rigori scientifici, eccetera. Quindi noi continueremo a fare questo lavoro, nella convinzione anche che non solo l'incontro con l'autore, ma anche così la scoperta di una biblioteca come posto libero dove si va, si entra senza dover dire per forza di cosa chi si è e cosa si vuole, ma semplicemente per curiosare, godere dello spazio e magari chiedere di poter usare dei servizi di qualunque natura. Ecco, quelli messi a disposizione insomma da parte della biblioteca. E lo faremo anche perché siamo convinti che questo ente, come biblioteca, abbia bisogno oggi più che mai di essere conosciuto, e la lettura oggi più che mai abbia bisogno di essere praticata e promossa dappertutto, insomma. Ecco, un percorso individuale è il migliore augurio che uno possa fare al proprio simile, quello di essere libero di costruirsi un percorso individuale e avere sempre un po' di curiosità. Grazie perché anche voi contribuite a questo nostro piccolo ma ambizioso progetto. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Cominciamo col dire, dico 2 parole io per introdurre quello che è il piccolo libro che presenteremo questa sera. È a metà tra la storia e la narrativa, com'è nel nostro stile, lo stile mio di Andrea. Andrea per la prima volta ci cimenta in un qualche cosa di narrativa. Lui viene dalla storia come sottoscritto, ma viene soprattutto dalla poesia, quindi è un percorso molto lungo e denso. Quindi scrivere di narrativa partendo da dei documenti certi non è facile, perché bisogna in un certo modo narrare quello che non si è detto, quello che in un certo modo si immagina. E noi siamo partiti proprio da due storie di due donne completamente diverse tra loro, anche come diciamo anche come impostazione, anche dal punto di vista politico, diciamo, ecco. Ma non solo, due donne che veramente hanno saputo sconvolgere i piani che la storia aveva previsto per loro, come un po' quello che succede alle donne durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, perché ci sarà una svolta dal punto di vista storico femminile, al femminile. Freya Stark e Vera Brittain, nate entrambe nel 1893, Freya Stark morta a 100 anni in quel di Asolo, dopo aver viaggiato nei luoghi ora tristemente noti dell'Iran, dell'Arabia Saudita, e, diciamo di tutta quella zona dell'Afghanistan, della Siria, esatto. Ed è una donna, una cartografa, soprattutto una grande viaggiatrice, che poi comincia a viaggiare relativamente tardi, a 36 anni. Questi diari sono che vanno dal settembre al 26 ottobre, in pratica, e ai giorni successivi, al giorno della rotta di Caporetto. E sono stati tradotti la prima volta da Cechin, dal professor Giovanni Cechin, in un'edizione minore, e noi l'abbiamo ripresa e un po', diciamo, sistemata e ampliata. E da lì abbiamo, dai diari di Freya, abbiamo cercato di costruire quello che succedeva attorno, una sorta di addio alle armi al femminile, dal punto di vista di una donna che faceva la Croce Rossina, della Croce Rossa inglese, ad Olegnano sul Carso. Vera Brittain, invece, una storia completamente diversa, una storia di incanto e di disincanto di una donna che veramente attraverso l'amore ha saputo trasformare la propria vita. Tra l'altro abbiamo una piccola sorpresa, se sorpresa si può chiamare, che è il breve trailer del film che la BBC ha finalmente fatto uscire, farà uscire questo il 2 gennaio, esce la prima a Londra e dopo verrà distribuito in tutta Europa. Quindi una storia che ha attirato, il capolavoro di Vera Brittain è Testamento di gioventù, mai tradotto in italiano. Capolavoro che riguarda la Prima Guerra Mondiale. Best seller quasi. Centinaia di milioni di copie vendute nel mondo. In Inghilterra. In tutto il mondo anglosassone, di lingua inglese, sì. Ecco, qui è un po', diciamo, la premessa di quello che poi. Andrea, magari se volevi dire qualcosa in più riguardo alla scrittura, insomma, sì, che abbiamo adoperato. Ci siamo un po' messi nei panni, insomma, un lavoro non facile, frutto anche perché è di un altro sesso che non è il nostro. Però queste due figure, i loro scritti, la loro vita, rendono le cose più facili, perché il loro temperamento è veramente un temperamento femminile, ma con delle connotazioni anche per certi aspetti maschili. Hanno infatti il sottotitolo La forza delle donne, nel senso che c'è una forza che naturalmente non è muscolare, una forza proprio di temperamento, una capacità di resistere di fronte a tutte le più umane tragedie. Siamo appunto nel cuore della Prima Guerra Mondiale. Queste due donne sono tra l'altro donne che potevano benissimo rimanersene a casa, perché appartenevano ai ceti privilegiati, famiglie alto borghesi, e quindi il loro impegno, come quello di centinaia e migliaia di altre donne, è doppiamente meritevole. Si gettarono in questa esperienza terrificante, che era quella dell'assistenza sanitaria, quindi assistevano, ovviamente non avevano le qualifiche, non operavano, non avevano specializzazioni, ma era la bassa manovalanza, quindi voleva dire stare giornate intere, anche 24 ore in piedi, a vedere gambe amputate, interiora rimesse a posto, grida, gemiti, urli. E questo lavoro sanitario delle Croce Rossine, appunto abbastanza noto comunque, viene espresso bene da queste due figure, e tra l'altro in modo diverso, diceva Marco prima, il temperamento profondamente diverso di queste due donne. In Freya Stark, nei suoi diari, troviamo in cui la sofferenza viene vissuta, lo si vede pienamente, ma con un certo distacco, riesce a tenere una separazione tra lei e quello che avviene. È il suo temperamento, lo sarà un po' in tutti gli scritti, è molto analitica, molto descrittiva, non va a fondo, nel senso che non vuole troppo indagare, descrive ma in maniera mirabile naturalmente. Poi qui è ancora giovane, poi nei suoi scritti successivi ci sarà un approfondimento nei scritti dei viaggi che compirà nel primo dopoguerra. Lei lavorerà anche per l'intelligence britannica durante la Seconda Guerra Mondiale, fu amica di Winston Churchill, che dicono che Asolo è stata risparmiata dagli bombardamenti alleati proprio grazie all'intervento di Freya Stark. Tra l'altro proprio la settimana scorsa siamo andati all'inaugurazione di una mostra ad Asolo su Freya Stark, abbiamo conosciuto anche la signora Modugno, che è stata la sua damigella di compagnia, dama di compagnia per gli 11 anni finali della vita di Freya Stark, e quindi insomma ha scritto un libro questa signora passeggiando con Freya, molto toccante, molto, molto bello, questa vecchia signora che diciamo, lei dice: io non ho vissuto col personaggio, ho vissuto con la persona che mi ha tenuto in ombra naturalmente, però è una persona straordinaria dal punto di vista umano. E invece Vera Brittain è un personaggio più tormentato, battagliera per i diritti politici, quindi nel primo dopoguerra subito inizia a entrare in campo nella lotta per i diritti delle donne, entra nei circoli femministi un po' casualmente, un po' all'inizio anche un po' diffidente, poi diventa una delle protagoniste per la pace, no? Proverbiale le critiche aspre che fa il suo governo nel 1945, quando gli inglesi bombardano a tappeto le città tedesche, famosa purtroppo tristemente il bombardamento di Dresda, dove non c'erano impianti militari, e lei, che era una dei 3.000 nomi che i nazisti avevano stilato da arrestare immediatamente nel momento in cui fossero arrivati a sbarcare in Gran Bretagna, lei critica il suo governo, pur essendo ovviamente contraria al 100% al nazismo. Quindi una persona che ragiona con la sua testa, una persona che prende delle decisioni autonomamente, no? Ecco, e in poche parole, sintetizzando, lei subisce dei traumi enormi dal punto di vista indiretto, cioè subisce dei lutti, perde il suo fidanzato Roland Layton nel 15, perde due carissimi amici Victor Richardson e Godfrey Tarlow nel 17, e poi perde l'amatissimo unico fratello minore Edward Brittain sull'altopiano appunto di Asiago, dove si era installato col contingente britannico, che viene in aiuto degli italiani assieme ai francesi dopo Caporetto, e che nel 18 è sull'altopiano dei Sette Comuni. Il 15 giugno del 18 muore, è sepolto in uno dei cimiteri britannici dell'altopiano, e la sua morte, Vera Brittain, si fa spargere alla figlia le ceneri sulla tomba del fratello. Io ero là stamattina con un'ottantina di ragazzi delle scuole di Marostica. E quindi storie importanti. Ecco, il fatto che la BBC abbia prodotto già uno sceneggiato nel 1979, adesso esce il film in tutta Europa, porterà, speriamo, anche in Italia, oltre all'opera che stiamo facendo noi con questo piccolo scritto, ma ecco, che comunque è molto importante, perché sta portando alla luce una figura che, ripeto, era totalmente sconosciuta da noi. In Inghilterra, a Londra, sugli scaffali delle librerie dei classici c'è Testamento di gioventù, quindi, ripeto, è una figura molto importante, quindi era doveroso cercare di mettere luce. E questo confronto, questa dialettica è affascinante, perché appunto ci ha portati a entrare in mondi, ecco, anche un po' diversi, lontani dalla nostra mentalità. Quindi questa alternanza, infatti ci sono due caratteri, no? Che differenziano dove ci sono i documenti e dove c'è il nostro intervento narrativo. Possiamo leggere qualcosa? Ecco, inizia Freya? Sì. Allora, proviamo col microfono. Sì. Vabbè, qua c'è così, ecco. Funziona? Sì. Allora, questo è l'inizio della parte dedicata a Freya, ed è, vedete un po' la volta, lei entra nella guerra. E prima di entrare nella guerra c'è la parte dedicata al paesaggio, che sarà fondamentale nelle descrizioni che lei farà nei libri che scriverà. Quando Freya Stark si arruola come crocerossina, non ha dubbi a scegliere le montagne italiane. Viene mandata sul fronte giuliano e arriva nella villa dei Conti Trento ad Olegnano, dove è dislocata l'unità britannica ospedaliera in Italia diretta da George Macaulay Trevelyan. Villa Trento è un luogo importante. e Freya lo capisce subito il giorno in cui vi giunge. È un mattino luminoso. Freya è ferma sul bordo della strada e osserva gli alberi in lontananza coperti di polvere. Ha dormito poco la notte prima. Certi strani sentimenti la pervadono ancora come forze oscure e imprevedibili. Il vento le brucia la pelle e l'ampio, ondulato paesaggio si estende innocuo davanti a lei. Il sole, velato da una nebbia tenue, è abbastanza caldo, ma un presagio d'autunno erompe dai suoi nascondigli più riposti. I luoghi che vede non sono molto diversi da quelli della sua Asolo. I declivi delle colline, le case coloniche, i boschi, l'aria, anche i lanci di mortaio che si cominciano a sentire in lontananza sono gli stessi. Sul breve tratto di strada che unisce il centro di Dovegnano all'ospedale, incontra delle truppe che marciano sul selciato e osserva pensierosa la polvere che si solleva mossa dal vento. È la guerra, pensa, la guerra vera, e lei c'è dentro. La dolcezza dell'estate sembra però ancora offrirle un amichevole benvenuto, e mentre svolta nel viale della villa, col suo corpo centrale classico a due ali, avverte una specie di sollievo. Proprio davanti a lei, proprio davanti, ci sono dei cannoni destinati al fronte che sembrano riposare sull'erba. Oltre la strada c'è il brolo, circondato da un ampio muro merlato. Il cortile d'onore è delimitato da un basso tramezzo e da una peschiera vuota. Le scalinate corrono tra balaustre doppie e nascosta da un groviglio di biancospino spicca una piccola staccionata bianca. Più lontano si scorgono le siepi di bosso e di tasso del giardino disseminato di svettanti cipressi centenari e marmoree figure mitologiche. Sembra un castello romantico, un luogo magico che pare aver assunto forma e colori dai libri di racconti e di fiabe. Freya è affascinata dalla ricchezza della vegetazione. È immersa in una luce impareggiabile, incantevole e piena di promesse. In fondo al cortile c'è un capanno con della legna, qualche attrezzo e dei mobili vecchi. Dalla porta aperta si vede una sedia di legno a schienale diritto. Sparsi in giro ci sono materiali di copertura in latta e reti metalliche. Se disordine c'è, è calcolato, pensa. Freya tiene ancora gli occhi levati verso la facciata della villa, quando un uomo dalla barba scura le passa così vicino che i loro gomiti si sfiorano. «So che lei è la figlia di Robert e Flora», dice. «Io sono un loro amico, Geoffrey Young». «Ma certo, il poeta». «Sì, Miss Stark, salve». Le tende la mano e le sorride. «Mia madre parla spesso di lei», aggiunge Freya. «Ho letto le sue ultime poesie pubblicate». Se ne avremo l'occasione le farò leggere qualcosa in italiano che ho composto qui, ai piedi dell'abbazia di Rosazzo. Forse a sua madre piacerebbero. Chiude gli occhi e rimane immobile per un attimo, poi li riapre. Ha un viso stretto e pallido. I suoi capelli hanno un intenso luccicore metallico. Nelle poesie che scrive sa raccontare soltanto la sua vita, ma la sua vita è appassionante e lui la racconta bene con uno stile semplice, concreto e senza tanti inutili vezzi. Ha un anello d'oro con i simboli di una loggia massonica. Il compasso e la squadra sovrapposti fanno significare l'interazione tra cielo e terra. È l'emblema di un'appartenenza di secondo grado alla corporazione dei costruttori, un gioiello realizzato a Birmingham nei primi anni del Novecento. Geoffrey Young le racconta di uomini che ritornano sconfitti e sciancati, di relitti umani, tolti di mezzo per fare posto a nuovi. Mentre Freya e Geoffrey parlano tra loro, arriva dalla villa un uomo che cammina lentamente con delle stampelle. Porta un uniforme e una borsa a tracolla. Non si riesce a vedergli il viso perché guarda in basso, mentre scende lentamente i gradini. È vecchio, pensa Freya. Una gamba di pantaloni è puntata in alto e pende per un tratto, vuota. Ha gli zigomi alti e lo sguardo vitreo che ti viene quando hai la morfina in corpo. Freya si sente invadere da un'intensa ondata di pietà. Lo guarda e vede il dolore che prova. Ricorda a se stessa che non è in grado di comprendere la sua ragione e la sua storia. Pensa che forse, sarebbe meglio non sapere, che non si dovrebbero provare troppe sensazioni. Pensa che la guerra è un abominio e sembra essere lì da un'eternità. E questo è l'inizio. sono due personaggi reali, a parte Freystack, George Everland, non so se voi avete i suoi libri in biblioteca, è stato il comandante delle unità della Croce Rossa Britannica d'Italia, poi divenne un grande storico e fu uno dei maggiori storici del nostro risorgimento. È un esperto di Garibaldi e ci sono, mi pare recentemente è stato pubblicato un'edizione del suo lavoro su Garibaldi. Poi c'è Geoffrey Young, che era un poeta, ma era assoluto uno scalatore, un valente scalatore che durante la ritirata di Caporetto perde, per una scheggia, perde una parte del piede e si farà mettere una protesi e continuerà a scalare montagne assieme anche all'amico Hillary, quello che cercherà di raggiungere l'Everest, purtroppo non riuscendoci. Leggiamo un'altra parte, sì. Che è quella, arriviamo al 26 ottobre, la data fatidica, e qui vediamo anche un po' di vita di tutti i giorni, della vita di queste croce rossine. C'è un'ironia, la noterete, molto inglese. E anche perché poi vedrete tra quello che c'è scritto, nonostante tutto, il 26 ottobre, nonostante l'emergenza, ci sarà il tempo obbligato per bere il tè, perché a quello non si può rinunciare nemmeno il 26 ottobre. Di ritorno ad Olegnano, un aeroplano austriaco vola basso, tanto che si vedono bene i colori dipinti sulla carlinga e il motore. Deve essere stato solo in perlustrazione, pensa Freya. Un'auto italiana con due ufficiali e un vecchio signore si ferma e chiede del bombardamento. E sembra quanto contrariato quando Gibby gli dice con un certo garbo che ormai non c'è più pericolo. La faccia di quel signore è familiare a Freya, forse uno del governo. L'aria è tagliente, punge i polmoni, il cielo è di un rosso rovente e proprio sulla linea dell'orizzonte alcune nuvole scurissime disegnano forme fantastiche, come di isole appena emerse. C'è agitazione dappertutto, ma niente caos. All'ospedale fanno presente a Freya e una sua collega che nessuna donna è più autorizzata ad andare a Cormons e i civili sono stati fatti evacuare in tutta fretta. Il pane lì non si può più avere e ci si deve servire delle razioni militari. La notizia è allarmante. Si dice che Caporetto sia stata presa dal nemico che ha sfondato le prime linee. L'unità numero 2 si trova proprio lì. 3 ambulanze sono state danneggiate e un autista è rimasto ferito. 26 ottobre. È stata una giornata piena di eventi. A colazione ci è stato detto di tenere una valigia con le nostre cose indispensabili per essere pronte a partire senza preavviso. In mattinata è giunto l'ordine di sgomberare tutti i pazienti dell'ospedale. Abbiamo avuto il nostro da fare per vestire con gli uniformi i nostri fratturati, mentre le ambulanze una dopo l'altra li hanno portati via. I cannoni tuonavano ritmicamente, ma più vicini di ieri, mi pare. Eravamo troppo indaffarate per badarci, ma una volta ho sentito distintamente la granata, lo scoppio alla partenza, l'acuto sibilo nell'aria, il pesante boato quando ha colpito. Il povero piccolo Celeste, col braccio e la gamba amputati, sedeva e tremava per il nervosismo. Abbiamo disfatto tutti i letti con cuscino, lenzuola e coperte legate in un fagotto. Verso le 14 è venuto Brett White che ci ha detto di smontare 25 letti che dovevano immediatamente partire e con loro alcune ausiliarie. Non avevamo ancora evacuato i casi più leggeri, ma per l'ora del tè li abbiamo spediti tutti. Quindi abbiamo smontato i letti, li abbiamo portati giù, impacchettato la biancheria e tutto il resto. La corsia ora è un deserto. Andiamo al Caporetto, facciamo l'ultimo pezzo. Sì. La confusione regna sovrana, sembra che Caporetto sia in mano agli austriaci. C'è una fiumana di gente disperata, soldati, cannoni, ambulanze, donne, bambini, carri e carretti, carichi a livello simile, tutti che si ritirano. Sembra che l'ordine di evacuare sia arrivato, ma c'è un controordine, niente partenza e per prepararsi subito per nuovi arrivi. Tutti i letti sono da rifare, si lasciano da parte i 25 già smontati e si stendono i materassi negli spazi vuoti. Tanti sono i pazienti che sono ritornati, hanno vagato nella strada intasata, nella confusione, e invece di andare a Udine sono ritornati qui. Si serve loro della minestra e del budino, tutto quello che si è trovato, perché nessuno qui si aspettava di preparare un altro pasto. Tutti fanno il possibile e si tirano fuori coperte e cuscini puliti. Nessuno può spogliarsi perché si potrebbe anche partire da un momento all'altro. Viene a mancare l'acqua che arriva da Cividale perché una bomba deve aver fatto saltare l'acquedotto. le notizie sono ancora brutte. Si pensa che Gorizia debba cadere domani. Le strade sono intasate, anche Udine è nel panico, con la gente che scappa più in fretta che può. Si dice però che a breve ci sarà un grande contrattacco. Leggiamo l'inizio di Vera e dopo vediamo un filmati. Così entriamo. Il racconto di Vera è un po' a flashback, a ritorni, a ricordi che si sovrappongono, ma in maniera abbastanza semplice. Il testamento di gioventù chiude un arco di tempo che va dal 1911-12 fino al 25, che sarà l'anno in cui lei si sposa, e comunque è proprio nel pieno delle sue attività, appunto, di impegno politico. Qui nell'immaginazione lei stringe in mano una fotografia che abbiamo messo poi appunto nel libro, questa, la fotografia di questi tre ragazzi, questi tre moschettieri li chiama, che sono il fratello, il fidanzato e l'amico Victor. In un afoso pomeriggio londinese dell'agosto 1925, Vera siede in soggiorno nella casa dei suoi genitori e là, oltre la finestra, guarda i giardini di Kensington. Mentre sfiora con le dita la fotografia che da molti anni custodisce gelosamente, cade in un sonno profondo e sogna. Si trova in quegli stessi giardini e, giunta di fronte alla statua di Peter Pan, la vede animarsi. L'eterno fanciullo sorride a Vera e un istante dopo svanisce, volando con un balzo verso il cielo. Raggiungerà l'isola che non c'è, unica terra in cui fuggire dal mondo degli adulti. Poi, come accade nei sogni, Vera è altrove, in un luogo desolato, uno sterminato mare di fango cosparso di enormi crateri. Si sente come l'ultima persona rimasta in vita e trova conforto guardando quella foto. Dai volti ritratti, diversamente dal personaggio della favola, traspare con forza il desiderio di crescere e plasmare il mondo. D'un tratto, quella terra di nessuno si popola di ragazzi in divisa dai diversi colori, che vagano come automi, talvolta scontrandosi. C'è un rumore assordante, ma Vera distingue delle voci che le sembrano familiari. Non dimenticarci, Vera, non dimenticarci. Tenta di correre verso quelle ombre, ma sotto di lei cede il terreno e sprofonda chiedendo inutilmente aiuto. Si risveglia bruscamente quando sua madre entra nella stanza. Vuoi del tè, cara? No, mamma, grazie, risponde ancora scossa dall'incubo. Quella domanda la riporta indietro nel tempo, ad emozioni ancora più intense, in quel fatale pomeriggio del giugno 1918. Dopo un lungo periodo trascorso in Francia come crocerossina volontaria, si trovava in licenza nella bella casa di famiglia a Buxton. Prendeva il tè con suo padre quando sentì suonare la campanella della porta d'ingresso. Non aspettando visite, trasalì per un sinistro presentimento. Aprendo, vide l'ufficiale postale impassibile, ma non abbastanza da trattenere un'impercettibile inquietudine. Non ebbe alcun dubbio e, presa la busta con il contrassegno del Ministero della Guerra, risalì in soggiorno, dove suo padre l'aspettava, quel volto così pallido da non sembrare più lui. Estratto il biglietto dalla busta, ne lesse tremando il laconico testo. Siamo spiacenti di informarvi che il capitano Edward H. Britton è stato ucciso in azione, Italia, 15 giugno. Come il bambino chiude gli occhi nella convinzione che svanisca ciò da cui è minacciato, Vera aveva retto, dopo i ripetuti lutti, una barriera invisibile fra lei e il pensiero che l'adorato fratello Edward avesse potuto subire la stessa sorte di Roland, Victor e Geoffrey. Ma non era servito a nulla e, come per altri innumerevoli legami d'affetto, la violenza straziante della guerra riscuoteva da lei ancora un tributo, il più doloroso. Da quel fatale giorno, per tutta la vita, avrebbe testimoniato quegli avvenimenti scrivendo il testamento della sua generazione, un testamento che lasciava come unico bene le speranze e le ambizioni di una perduta gioventù. Riproduce. Se no, il filmato è un po'. All'inizio c'è questa alza un pochino, magari sì. Sunny hours of spring seem gay, and I shall find the white may blossoms sweet, though you have passed away. perhaps the summer woods will shimmer bright, and crimson roses once again be fair, and autumn harvest fields a rich delight, although you're not there. But though kind time may many joys renew, there is one greatest joy I shall not know again, because my heart for loss of you was broken long ago. Ci sono delle immagini chiave. Thank you. facciamo dopo. Ecco, la figlia Shirley che venne a spargere le ceneri a Granezza di Lusiana sull'altopiano dei Comuni è vivente, ha circa una novantenne, arzilla, è parlamentare alla Camera dei Lords, a titolo di baronessa nel Partito Liberale Social Liberale, una cosa un po' particolare, la si vede anche nei filmati di YouTube che polemizza aspramente con Margaret Thatcher, quindi sono un personaggio che ha continuato un po' l'attività della madre sul piano delle grandi battaglie per la pace. Aria Stark invece la vediamo dopo la seconda guerra mondiale, si stabilisce definitivamente ad Asolo, dove era stata da bambina, questi due genitori artisti che giravano per l'Europa, poi si innamorano di Asolo. Asolo è molto frequentata dai britannici, per le memorie del poeta Robert Browning, poi così si vede che ha un fascino, esercita un fascino con gli inglesi, e poi nel secondo guerra si stabilisce lì appunto e si impegna anche per gli aspetti civili. C'è la presentazione il sindaco che al di là dei bombardamenti spammiati anche ha lavorato molto, in maniera sempre molto diciamo elegante, molto british, per evitare le speculazioni edilizie, quindi è stata fondamentale in quell'area per bloccare le speculazioni edilizie, quindi aveva anche un potere diciamo carismatico. Ecco, vorrei solo leggere una cosa di quel ragazzino con i baffetti che è quello al centro della foto, di cui poi leggeremo un'altra cosa molto breve. Questo ragazzo, come molti altri inglesi, vanno volontari nei cattolici, non c'è costrizione obbligatoria, sono tutti volontari, e lui è un interventista convinto, ma questa convinzione in quella guerra farà presto a dissolversi. Il disincanto è il termine chiave, appunto. Si sentono in un certo senso traditi in quegli ideali che venivano insegnati nelle scuole, nelle università. La massa, diciamo, particolarmente rilevante dei contadini, di persone che non avevano istruzione, che non erano ufficiali, vive la guerra passivamente, nel senso accettandola purtroppo come un dovere. Queste classi più elevate riflettevano, esempio proverbiale, all'Ovest niente di nuovo, di Eric Marie Remarque, questi ragazzini che vengono indottrinati al culto della nazione e della patria, ma nel modo sbagliato, cioè non sapendo poi chi diceva questo, che cosa gli avrebbe aspettato con le nuove tecnologie belliche, con gli armamenti. E c'è una lettera di Roland Layton a Vera che dice, qui scrive: chi pensa che la guerra sia qualcosa di glorioso, di nobile, chi si riempie la bocca di vibranti moniti invocando l'onore e la gloria, il valore e l'amor patrio, con la stessa fervente e sconsiderata fede che spinse i sacerdoti di Baal a invocare il loro idolo assopito, posi solo per un istante lo sguardo sul mucchietto di cenci faradici che coprono un mezzo cranio, una tibia, quelle che avrebbero potuto essere costole, o su questo scheletro adagiato su un fianco, semiranicchiato, così come è caduto, perfetto se non mancasse la testa, con i panni laceri ancora indosso, e capisca quanto sia cosa grande e gloriosa l'aver estratto dalla giovinezza, dalla gioia e dalla vita un fetido cumulo di materia putrescente. Chi fra quelli che hanno provato e visto può dire che la vittoria valga la morte di anche uno solo di essi? Ecco, pensate, a 20 anni, cioè nel giro di un anno e mezzo, due, si passa da un'esaltazione, da una grande forza, diciamo prima la voglia di menare le mani nel senso di essere dalla parte del giusto, a questa consapevolezza totale, tragica, di essere nel luogo sbagliato, e di fronte a persone come noi, ma che il meccanismo è partito e non si ferma più fino alla fine. E dopo vedremo una cosa ancora più incredibile dal punto di vista della consapevolezza di questo straordinario ragazzo, Roland Layton. Qualcosa ancora, sì, di Freya? Sì, capoletto. Qualcosa, sì. C'era una cosa molto veloce. Scusate ancora. Allora, 28 ottobre, sull'ambulanza numero 88 vicino a Codroipo. Verso le ore 13 di ieri, la direttrice ha detto a sorella Brechtin, a Trent, a Gibby, Murray, Harley, Bosi e a me di tenerci pronte a partire subito per il nuovo ospedale di Conegliano. In 15 minuti abbiamo portato le nostre borse davanti all'entrata e gli altri pacchi, che forse non vedremo più nel salone. Abbiamo preso il tè e il fischietto. Ci ha chiamate a iniziare la ritirata. Si parte alle 17.15, una sera meravigliosa. L'ospedale è completamente vuoto, eccetto che per alcuni sbandati che sono entrati zoppicando. L'autista è Hamler e segue col camion delle provviste Cobbywood. Mrs. Campbell parte separatamente con un autista inesperto, ma di lei, per il momento, non si sa più nulla. Al crepuscolo spunta la luna e verso Cividale si nota il frastuono delle granate. Il traffico sulla strada a tre colonne è intasato, con carabinieri che mantengono l'ordine lungo il percorso. Tutti parlano, gridano, tutti sono stanchi morti. Ora si comincia davvero a provare cosa sia una ritirata. Dietro Rosazzo, sulla linea dell'orizzonte, delle alte fiamme indicano i depositi di munizioni che sono stati incendiati e fatti esplodere perché non cadano in mano nemica. La strada è piena di persone esauste che dormono dappertutto, ammucchiate ai bordi della carreggiata. È un incalzare continuo di facce livide, occhi sbarrati, militari ritirati, in ritirata, bambini, vecchi, donne, carri, biciclette, cavalli, materassi ondi, alti ondeggianti. Qui chiaro il riferimento a Hemingway. Vicini a San Giovanni si accosta alla colonna un portaordini in bicicletta e chiede espressamente di quelli di Villa Trento. Freya prende il messaggio che dice di rintracciare un capitano inglese all'Hotel Europa di Conegliano. Siamo diretti proprio lì, le dico. Ci sono due camion capovolti, un cavallo morto steso sulla strada. Vicino a Udine la colonna attraversa l'ampio letto del fiume. Gli uomini sono sparsi a dormire sulle pietre bianche. Sembrano tutti morti, come stesi su un campo di battaglia. Leggiamo due poesie di Roland e poi vediamo il trailer. Sì, così è anche giustificato. E concludiamo il nostro incontro. Adesso diciamo, non abbiamo approfondito molto sul fratello. Lei c'è una bellissima pagina del Testamento di Gesù che descrive il suo arrivo al cimitero di Granezza nel 1921, l'unico viaggio che fece in Italia con un'amica, Winifred Holtby, con cui aveva condiviso le prime lotte femministe. Pensate, queste due donne negli anni 20 vivono insieme in un stesso appartamento. Pensate, negli anni 20 era una cosa rivoluzionaria, e infatti lascio immaginare quelle che furono poi le... Oggi a Londra c'è appunto la targa che ricorda questo connubio. Era un'amicizia, un'amicizia fra donne, e dice la figlia stessa, Vanessa Shelley, al di là di tutte le illazioni, di tutti quelli che potevano essere, diciamo, i dubbi su questa relazione, in realtà era un'amicizia fra donne, cosa del tutto impossibile secondo le canoni del tempo. E ancora oggi si fa fatica, bisogna dire questo. L'ultimo capitolo di... Anzi, prima vi leggo una poesia che scrive sempre su questa onda del sentimento della tragedia. Si scrivevano poesie a questi ragazzi. Lei conosce Roland a casa sua, il fratello le portava sempre un po' di amici, ma lei era annoiata da questi inconsistenti maschietti. Finché, siamo nel 13, entra in casa sua Roland e rimane folgorata. Non è solo il colpo di fulmine classico, anche quello, ma rimane folgorata dall'intelligenza e dalla prontezza e dalla sensibilità e dalla sagacia di questo ragazzo, che sicuramente sarebbe diventato qualcuno di molto molto importante nella vita, e questa coppia sarebbe stata veramente straordinaria. E lui scriveva delle lettere, delle poesie. Tra l'altro queste poesie, che sono qua, sono tre, sono la prima volta che vengono tradotte in italiano, e non sono neanche nell'antologia dei poeti di guerra inglesi, che sono bellissime, non sono neanche, sono in Testamento di Gioventù, cioè ha tradotto una signora che vive a Lusiana, britannica, e siamo appunto orgogliosi di essere i primi ad averle portate al pubblico italiano. Questa si intitola Villanelle. Cita Plug Street. Plug Street non è una strada, non è un nome di una via, era un camminamento particolarmente, diciamo, tristemente noto in Belgio, nelle Fiandre, dove combattevano, perché era sottoposto sempre ai fuochi di artiglieria o dei cecchini, e quindi ci rimanevano moltissimi in questo camminamento. Le viole del bosco di Plug Street spedisco a te, carissima, d'oltremare. È strano che siano azzurre, azzurre ma imbevute di rosso sangue, poiché sono cresciute intorno alla sua testa. È strano che siano azzurre. Le viole del bosco di Plug Street, quale significato pensano per me? Vita e speranza e amore e te. E tu non le hai viste crescere dove giaceva il suo corpo dilaniato, nascondendo l'orrore dalla luce del giorno. È stato meglio così, mia amata. Le viole d'oltremare, alla tua cara, lontana e smemorata terra, queste mando per ricordo, sapendo che tu capirai. Bosco di Blackstreet, aprile 1915. Poi c'è un'altra poesia che viene scritta poche settimane prima della sua morte, nel dicembre del 1915, sempre, quindi il primo anno in cui entra in guerra volontario. E l'ultimo capitolo del Testamento di Gioventù si intitola Another Stranger, un altro straniero, un altro sconosciuto. È dedicato a, in parte al corteggiamento che il suo marito, il professore universitario George Catlin, da cui avrà questi due figli, maschio e femmina, da cui Shelley, le fa in modo molto bizzarro, molto strano, e lei rimane anche piuttosto irritata, se la spiega molto, non ha peli sulla lingua, Barbara, il suo Testamento Gioventù è straordinario proprio per la chiarezza in cui parla di tutto. E poi alla fine loro si sposano, vanno negli Stati Uniti, lui ha un incarico universitario, ha lì due figli, poi ritorna in Inghilterra e per un periodo porta a casa Winifred Oldby, che vi va a vivere, il marito accetta pazientemente questa cosa. Poi questa donna morirà giovane di tumore e sarà un altro ennesimo lutto nella vita di Barbara Britten. Questa poesia appunto contiene un verso, Another Stranger, perché in questa poesia, in sintesi, Roland dice a lei che dovrà trovare un altro e seguirlo, non perché la vuole lasciare, perché sa che la lascerà comunque contro la sua volontà, perché dovrà morire, perché è impossibile uscire da quell'inferno vivi. E così avviene appunto nella notte, una notte di dicembre del 1915, al chiaro di luna viene preso da una mitragliata allo stomaco e muore il giorno dopo all'ospedale di Lovencourt. La luce del sole lungo la strada bianca che scende a nastro sotto la collina e la clematide vellutata che si arrampica attorno al tuo davanzale ti stanno ancora aspettando. E ancora lo stagno ombreggiato si incresperà sotto i tuoi piedi e quando nel tuo bosco canterà il tordo, inconsapevolmente potresti incontrare un altro estraneo, mia cara. E se non è proprio così vecchio come il ragazzo che una volta conoscevi, e meno orgoglioso anche e più degno, tu non puoi lasciarlo andare. Le margherite sono più sincere delle passiflore. Sarà meglio così. Pensate a 20 anni, quale potente, in cui è terribile maturazione, lui consapevole. Le margherite sono più sincere delle passiflore. Lui è la passiflora che ha deciso di entrare in guerra. Quindi più sincera la margherita, che dice, e qui c'è anche un senso di colpa di aver partecipato, voluto quella guerra. Vediamo ora il trailer della BBC del film Testament of the Out. Here at last, we have to work twice as hard as the men. If I told you I want to be a writer. Oh, here, stop. Well, as well, Shelley, all these romantics aren't good for you, you know. I suppose you think they're ridiculous. Vera Britta e Roland Leto. To be involved in something like this. I can't let others do my duty for me. Our generation will never be new again. Our youth has been stolen from us. Ecco, noi non abbiamo altro da aggiungere, speriamo che il film sia un bel film, comunque ecco, sarà molto emozionante andarlo a vedere, avendo alle spalle tutto quello che è stato fatto per questa figura e insomma, diciamo che naturalmente abbiamo scelto due inglesi, ma ci sono anche italiane, sono tantissime, però queste figure da noi hanno avuto questo rapporto con l'Italia, quindi era giusto e doveroso farle conoscere in quel momento della loro vita in particolar modo. Marco, vuoi dire qualcosa? Prego, sì, sì. Forse non ho capito bene, ma voi avete trovato questi diari? Sì. Li avete trovati? Sì, sì, non originali. Abbiamo trovato le traduzioni fatte da una grandissima persona, purtroppo un po' dimenticata, il professor Giovanni Cecchin, originario della zona del Trevigiano, che poi insegnò a Princeton negli Stati Uniti, lingua e letteratura inglese, esperto di Shakespeare e di Hemingway. E da Hemingway è risalito a tutta la memorialistica britannica in Italia, i diari, molti diari che sono stati scritti da alcuni autori, e lui riporta anche brani di Kipling nel suo viaggio in Italia durante la guerra, della Freya Stark. Ecco, non conosceva Vera Brita, in questa non l'ha citata, però il professor Cecchin purtroppo è mancato, la collezione Princeton è andata un po' dispersa, ecco, quindi è un modo per noi anche di ricordare questa grande, grande e preparatissima persona, veramente un grande studioso, però ecco, poi naturalmente i diari vanno ravvivati attraverso una ambientazione che viene collocata, già parlano da sé, ma il fatto di questo è stato, come ci ha detto Marco, la nostra sfida, quella di intrometterci con poco o tanto riguardo, non sappiamo, nelle vite altrui. È una forma di scrittura che può essere anche, diciamo, non è molto diffusa, cioè il nostro interesse, Marco poi appunto ha scritto anche un altro libro, Cammini Viaggiatori, dove c'è questa esperienza là ancora di più rarefatta, nel senso è il soggetto che cammina e viaggia nei luoghi di questi grandi avvenimenti della storia e assorbe quello che c'è nell'aria, queste vibrazioni, questi personaggi, è un incontro, sono dei flash, delle folgorazioni. Quindi c'è questa intersecazione, perché noi siamo il frutto della storia, cioè voglio dire, Bolzano è l'esempio della storia, di cosa è, perché se la guerra la vincevano gli austriaci, Bolzano era austriaca. Quindi noi siamo il frutto della storia, perciò camminare dentro a questi percorsi della memoria, naturalmente richiede una sensibilità, richiede silenzio, richiede concentrazione, richiede voglia di farlo. E poi se hai la possibilità di buttare giù anche qualche scritto a proposito, direi che noi stiamo prendendo abbiamo intrapreso una buona strada che può avere anche di noi, come anche i fogli di tabacco, e Marco, c'è questo senso della memoria delle popolazioni appunto del canale di Brenta, dei contrabbandieri, quindi c'è questo senso, ma racconti brevi, no? Dei flash, come delle emozioni che ti prendono e tu le metti giù, dei pensierini, chiamiamoli tra virgolette, che io penso che sia veramente anche molto gradito, sono libri che stanno veramente avendo un notevole gradimento, questa è per noi veramente la situazione, perché è quello che volevamo, insomma, perché poi il lettore diventa a sua volta partecipe di questo scambio di emozioni con un passato, con personaggi del passato che magari rivivono in maniera un po' diversa, però rivivono, e questo è molto importante. Direi anche di sì, no? Perché questa è una cosa che ci viene chiesta spesso, in effetti. Ecco, non so, Marco, di qualcosa, non so cosa. Abbiamo cercato di tirar fuori tutto il lato femminile, ma non solo. E nessuna donna ti ha aiutato? No. Sì. Su queste due figure femminili è stato girato quel film? Su Vera Brittain. Su Vera Brittain esce il 2 gennaio a Londra in prima assoluta e poi verrà distribuito un po' alla volta, esatto, in tutta Europa, quindi in Italia. Sorella Pasquini, chi è? Marco Cerassina. Lei è seconda? Sì, Freya Stark ancora un film non l'hanno fatto, no, invece sarebbe molto interessante perché ha una vita così avventurosa che potrebbe venirne fuori un film eccezionale. Infatti. Ha avuto tante vite Freya Stark, sì. così ce l'hanno descritta, no? Perché passando l'ultimo viaggio lo fa 94 anni, sì. 90... Mi ha incuriosito quella fotografia perché rispecchia proprio una parte di divisa che portano tuttora le croce rosse. Certo, sì, noi abbiamo fatto ritoccata graficamente, era bianco e nero, ma abbiamo voluto mettere in evidenza soprattutto la croce appunto, i fiori, perché ci sono molti ricordi di fiori, le viole, poi c'è un'altra poesia, i fiori sono un simbolo ovviamente di amore, di fedeltà, e poi la lettera, cioè la scrittura che accomuna loro e accomunava tutti questi personaggi che fanno parte di questa tragedia, però nobilissima in un certo senso, ecco. Prego. Ho interpretato il vostro libro anche senza averlo letto come un bellissimo elogio alle donne. Sì. Sbaglio? No. E a proposito, vorrei leggere due righe. È una bellissima fiaba orientale, ma brevissima proprio. Un maharajà assilla un genio perché lo faccia diventare sempre più intelligente. Il genio lo accontenta, ma quando il maharajà chiede l'intelligenza più radiosa che esista, si sente rispondere: l'avrai, ma ti verranno le mestruazioni. Ecco. Ecco, sì, beh, certo, no. Ma è affascinante per una persona d'alto sesso cercare di immedesimarsi, non bisogna avere pudore, non è possibile totalmente, a parte aspetti fisiologici, ma così emotivamente è anche doveroso, secondo me, cioè, per capire meglio certe psicologie. Poi la forza delle donne, come dicevo prima, è una forza di resistenza, non appunto muscolare, una resistenza di temperamento, cioè. Non cedere mai, insomma. Certo, la cosa più bella è quando questo purtroppo è come vincere, quando succede quello che stava succedendo e poi purtroppo la guerra ha spezzato, come questa unione perfetta tra il maschile e il femminile, come Vera e Roland. E questo Freya non ebbe mai un rapporto, diciamo, stretto con gli uomini. Si sposò per un brevissimo periodo, era un altro spirito, aveva un'altra indole, indipendente, sì. Molto più indipendente. Poi forse aveva avuto anche un complesso, perché ha avuto un incidente da bambina che le aveva sfregiato parte del volto. Lei porta sempre delle cuffiette, le famose cuffiette di Freya Stark, un capellino. Può darsi che anche questo abbia influito a tenerla un po', diciamo. Però ha sempre questo sorriso, sempre questa pacatezza, questa capacità di essere, ecco, due temperamenti. Dato la Freya molto vicina ai conservatori, intima amica di Winston Churchill, e invece Freya vicina ai laburisti, cioè vicina ai partiti, diciamo, più progressisti. Quindi proprio due nature come diverse, coetanee, non si conobbero personalmente, sicuramente di fama. Infatti questo volevo chiedere. No. Di questo volevo no, chiedere. Non si, no. Non si sono mai conosciute. No, mai conosciute personalmente. No. No, pensate che messo voi insieme, sono nel libro. Beh, esatto, e questa è la cosa strana è che la sorella di Freya si chiama Vera. Ma non è la Vera. Ecco. Purtroppo, tra l'altro, chiedevo proprio a questa signora, mi detto, ma ha parenti Freya Stark, cioè la Vera, la sorella di, non Vera favorita di Freya Stark, aveva cinque figli e sono morti tutti. Ecco, ci sono due nipoti, ma si vedono poco, insomma, ecco, non hanno un rapporto molto, quindi. E la Vera Brittain ha questi due, appunto, questi due figli, che hanno poi dei figli a loro volta. Speranza in alto piano, con le celebrazioni, adesso gli inglesi stanno riprendendo a posto tutti i cimiteri di guerra, probabilmente potrebbe essere che arrivano i reali del 2018, arrivano sulla tomba di Edward Brittain, sì, perché fanno il giro di tutte le tombe del Commonwealth, e nel 2018 potrebbero approdare in Italia, dove gli inglesi sono intervenuti sul Piave, e sull'alto piano sicuramente sulla tomba di Brittain, vista la fama di questa figura. Adesso il film indubbiamente servirà un pochino anche a noi, che noi potremmo sempre dire che siamo arrivati prima in Italia, no? E quindi insomma, questa è una versione. Comunque, giusto, un film su Freya Stark sarebbe perfetto. Io penso e spero che la BBC ci pensi, perché veramente è una vita straordinaria, avventurosa come mai, questi viaggi anche dopo, tutta la, una specie di Lawrence d'Arabia in gonnella, perché alla fine ha fatto, parlava tu per tu con i vari califfi dell'epoca, parlando di califfi adesso un po', ma parlava in modo... Sì, lei teneva proprio dei contatti molto diplomatici, diretti, fra le entità, diciamo, territoriali, arabe, siriane, irachene, che erano ovviamente nell'orbita britannica dopo la... e tutti appunto i britannici che erano in loco, ma con una capacità, infatti è stata incaricata proprio di tenere, di saldare, di cercare, come faceva Lawrence d'Arabia prima guerra mondiale, non ovviamente facendo azioni di guerra, di tenere il più possibile dalla propria parte, da parte britannica, l'alleanza dei popoli arabi contro la Germania. E quindi insomma parliamo di cose importanti. Poi questi bellissimi libri di viaggio, La Valle dei Assassini, Le Porte d'Arabia, alcuni sono tradotti in italiano ma non tutti, sì, ecco. Sì, la casa editrice La Terra. Giorni è uscito il libro, non so se è capitato, di Frey Stark, Lettere delle Sirie. Ecco, sì, sì, ecco, sì, stanno in, ecco, sì, sì. No, non sapevo niente, stanno cominciando. È una editrice molto piccola. Beh, ma fanno bene, perché insomma. Ecco, perché anche Freya Stark è poco conosciuta. In c'è fondo, insomma. Aperta la mostra dallo scorso sabato. Sì, da sabato scorso. Ad Asolo, con i suoi vestiti, tutti in stile diciamo orientale, con i suoi oggetti. Lei poi era disegnatrice, pittrice, non era eccelsa, ma fa dei ritratti molto, molto belli, cartografa, era, quindi aveva un'esperienza, parlava le lingue arabe. E quindi sì, era da sola, lei andava da sola con un portatore in giro, va in questa valle degli assassini nella Arabia Saudita, tra le prime ad arrivarci. Scusa, è venuto a corrente che c'erano queste storie? Beh, diciamo, Vera Brittain a me personalmente aveva subito è scattato qualcosa, perché ne ho visto qualcosa in alcuni siti inglesi, no? E guarda caso, io sono padovano, però sono andato a abitare sull'altopiano da 5 anni, vivo a Lusiana. Nel comune di Lusiana c'è il cimitero di Granezza. Nel cimitero di Granezza c'è Edward Britten e Vera Britten. No, guarda. E quindi ho detto, ma qui abbiamo una storia incredibile, no? La vicenda di Freya Stark nel Veneto è nell'aria, Asolo, sì, ma è più conosciuta, è un po' più conosciuta, ma non tanto, e soprattutto i diari sono quasi, cioè la collezione Princeton è stata fatta in pochissimi numeri, quindi è dispersa, non c'è. Sì, c'è una casa di Pisa che lo ha stampato qualche anno fa, ma poi. E dopo, e quindi si è perso. Noi cerchiamo di dare sia appunto attraverso le testimonianze del suo diario, che quindi è precedente a tutte le vicende, perché anche lì all'inaugurazione chiedevano di questo diario, perché c'erano i nostri libri, ma come. C'è questa cosa di professor Cecchi, di cui bisogna sempre ovviamente dare il merito di questa cosa, però poi il nostro merito è quello di portare avanti la cosa. Erano tutti e due di origine nobile? No, diciamo medio alto borghese. No, il papà di Vera Brittain era un manifatturiero della carta, da generazioni era un piccolo industriale della carta, invece i genitori di Freya erano artisti. Pittori quindi come personaggio più interessante di Vera Brittain, come più interessante, beh, ma sono due cose veramente diverse. Cioè, e per questo noi qui le abbiamo volute fondere e tenere separate, e questo, il nostro orgoglio sta nel fatto di aver fatto una cosa che due personalità così diverse di temperamento sono, diciamo, portate all'attenzione, quindi con nota biografica, con alcune fotografie in bianco e nero in cui vedrete alcune cose, insomma, quindi da questo punto di vista. Poi può esserci chi preferisce Freya Stark, chi preferisce Vera Brittain, ecco, noi siamo imparziali, diciamo, noi le abbiamo tutte e due. Sono... Adesso il progetto è quello di occuparsi di altre donne, e c'era venuto in mente per esempio Margherita Sarfatti, che era la cosiddetta l'amante di Benito Mussolini, veneziana tra l'altro, io sono veneziano, quindi ho avuto modo anche di accedere. Il figlio di Margherita Sarfatti è morto sull'altopiano, figlio giovanissimo. E l'altra donna è Rosa Luxemburg, quindi il titolo veniva proprio Margherita e Rosa, o Rosa e Margherita. Era l'idea. È ambizioso e difficile, è perché è completamente diverse, una legata al fascismo, una legata sì, al per cercare di creare questa, cioè due donne che vivono in maniera molto diversa nel loro ambito politico, perché la Sarfatti ovviamente non aveva un'intellettualità, lei appoggia emotivamente e istintivamente il fascismo, però lo fa anche in maniera molto decisa. Cioè, Rosa Luxemburg è una Lenin, addirittura Lenin si incavolava con questa donna perché teneva a testa quest'uomo. Quindi a me piacerebbe con Marco che andassimo a fondo di queste due figure, E anche sulla Luxembourg, sì, è stato scritto molto, ma non poi così tanto. E sarebbe bello riuscire a fare questo lavoro. Sì, cioè di tocchi umani, diciamo, non tanto degli aspetti politici o storici della grande o della grande politica o della grande storia, ma di piccoli momenti. Poi con la Sarfatti potete scrivere poco di Mussolini. Beh, perché è stata formativa per Mussolini la Sarfatti. Ma infatti l'ha introdotta nei salotti buoni di Milano, eccetera. Dopo le leggi razziali l'ha praticamente eliminata dalla sua vita. Però ecco, alla luce di questo è un lavoro difficile, perché richiede appunto una sensibilità di non scadere troppo nel saggio politico. Però pensate, queste due donne che hanno appoggiato e portato avanti due delle idee ovviamente più terribili e affascinanti per certi aspetti del Novecento, cioè, quindi dal punto di vista femminile, e questa è una cosa notevole. Vedremo. I progetti sono tanti. Tanto portiamo avanti questi libri, eccetera. Le donne devono essere morte comunque. Ma è che adesso, in questo momento, se dovessimo. Sono state fatte cose, cioè, ci sono personaggi, c'è la. Adesso non ricordo il nome, la famosa passionaria della Myanmar, dell'ex Birmania, questa grande donna. Ma è stato fatto un libro, un saggio molto bello anche. Questa sarebbe una figura che è straordinaria. Ma poi doveva diventare la presidentessa della Birmania, ex Birmania via Mar, che poi è stata invece al regime militare, l'ha imprigionata. E continua da anni questa lotta, diciamo, civile agli arresti domiciliari, ed è una donna straordinaria. Ma io penso alle ragazze iraniane che l'anno scorso hanno fatto, penso alle ragazze cinesi in questi giorni a Hong Kong, cioè ci saranno dei serbatoi per la letteratura di memoria straordinari. In quei mondi, purtroppo, bisogna passare, vedi, il discorso di morire, bisogna passare attraverso queste tragedie per nobilitare la grandezza di queste figure. Io adesso sto facendo un lavoro sulla Anna Frank, che devo fare un intervento a una mostra, a convegno che sarà a Cartigliano, in provincia di Vicenza, dove l'ambasciata olandese ha preso contatti perché hanno dei rapporti commerciali. Allora sto rilegendo il diario di Anna Frank, perché l'ho detto, ma è sconvolgente, cioè è straordinario, cioè, ma è un adolescente, parla di se stessa, parla del suo corpo, ce l'ha con la madre, ce l'ha con il cuti, cioè non è l'icona di Anna Frank, questa faccetta, è una persona viva. Quindi bisogna cercare di far portare in vita queste cose, chiaramente sul piano. Aveva 16 anni. Sì, quindi dai 12 ai 14, 15 circa. E quindi, per dire, bisogna purtroppo passare attraverso queste grandi tragedie. Poi dopo, se vuole, non è mai finita, cioè, potremmo scrivere il non libro su tutte le donne che tutti i giorni tirano il carretto, perché anche quello è un eroismo non da poco, perché noi parliamo dei grandi personaggi, ma è tutta sta gente anonima che ogni giorno, come siamo tutti noi, insomma, quindi non basterebbe una Bibbia. Nell'altro libro abbiamo portato poche copie, parliamo delle portatrici carniche, che sono delle figure quasi sconosciute della zona di Timau, quindi appena dopo il confine. Tra queste portatrici c'è l'unica vittima della prima guerra mondiale, che è una donna che è stata colpita da un cecchino mentre portava con la gerla al fronte i vestiti, no? I vestiti che andavano, li lavava, li portavano queste donne, le portavano. Sì, ce l'ho. Ecco, quindi Friuli. Ci sarebbe da scrivere. C'è stato un grande fenomeno delle Alessandrine, le cosiddette Alessandrine, dei Friuli, di Venezia, di Veneto, che andavano a lavorare in Egitto nella seconda metà dell'Ottocento. Ecco. Ah, sì, e c'è sì. Fausta Celante, la scrittrice triestina, ha scritto un bel libro sulla figura di queste donne, e ultimamente qualche regista sloveno ha fatto anche un film che è stato proiettato nel festival Mitteleuropeo sulla figura di queste donne. E si dice che molte delle famiglie che oggi possiedono la terra grazie ai soldi di quelle donne che andavano a lavorare in Egitto. Ah sì, certo, ma diciamo che oggi abbiamo i mezzi per reperire infinità di storie, naturalmente non possiamo seguirle tutte, cioè dovremmo seguire il genere umano, però, no, perché ognuno di noi è una storia, sinceramente, vuol dire, potremmo fare un libro sulle bibliotecarie, che sarebbe da scrivere un tomo così, con la forza, l'energia, queste cellule di cultura. Io non faccio che esaltare le figure bibliotecarie, anche dove siamo, cioè veramente, perché cioè, se non ci fossero loro, bibliotecari, veramente guardate che sapete quelle cose che si hanno per scontate, ma non è scontato niente, perché ecco, quindi però oggi abbiamo possibilità di attingere a un'infinità di cose, è importante averle e si incontrano casualmente, si scelgono, si riesce a trovare, e questa è nei luoghi dove c'è la cultura. Non ci sono raccomandate? No, non penso. Ecco, quindi voglio dire, alla fine storie ce ne sono un'infinità, queste sapete, il problema è che dopo bisogna fare delle scelte, diventano degli emblemi, dei simboli di quello che c'è poi dietro a tutto questo, perché Croce Rossine ad esempio ce n'erano migliaia, decine di migliaia, e non tutte avevano, erano Vera Brittain o Freya Stark, erano persone normalissime, eppure non sapevano magari esprimersi, scrivere, ma io dico sempre, ecco anche agli incontri, pensate a quello che è inscrivibile, cioè quella testa che si abbassa ad ascoltare un sussurro di un moribondo, a quella mano che prende l'altra mano, a una mano messa sulla fronte, quei gesti consenti, ma che queste donne facevano di fronte ai ragazzi che stavano spesso per morire, no? E quindi questo non lo può scrivere nessuno, questo è esperienza esistenziale, come d'altronde anche la guerra è esperienza esistenziale, non può essere, si si avvicina con la scrittura, ma non potrà mai essere rappresentata, mai. Signore, grazie. Che se l'uomo veramente avesse consapevolezza di dove è inserito all'interno dello spazio, dell'universo, nell'infinitamente grande e infinitamente piccolo, e com'è difficile concepire tutto questo, non perderebbe tempo a battagliare ogni giorno col proprio simile. Però ci sarebbe qualcuno che, quando l'ha saputo, farebbe di tutto per impossessarsi di questo universo, eh? Attenzione, perché ci sono sempre due nature. Appena sa che c'è una cosa così grande, una parte della natura umana, perché non c'è una unica natura, probabilmente ce ne sono tante, ecco, non so, questo è il mio pensiero personale, ecco. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, è stato piacevolissimo.